versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, eccoci qui Oscar Giannino in diretta dagli studi di Milano della radio. Vi saluto e vi ringrazio come sempre di essere in ascolto. Vi ricorda l'indirizzo, come sempre, la versione di Oscar, @radio24.it, per proporre temi e per proporvi come ospiti in trasmissione. E andiamo subito al punto di cui ci occupiamo oggi. È un tema che mi è molto caro, perché io, che come è noto dichiaro sempre il mio punto di vista, sono ohimè un impenitente liberista mercatista, cioè credo nel valore per la crescita di una paroletta che è fondamentale e che nel nostro paese, diciamo, ha delle letture e suscita anche delle reazioni diverse. Questa paroletta si chiama concorrenza. La concorrenza insieme al libero meccanismo dei prezzi sono i due pilastri fondamentali attraverso i quali può davvero funzionare per sprigionare i suoi effetti positivi un'economia di mercato. Una, ripeto, è quella della libera formazione dei prezzi del mercato, che danno dà i segnali dell'incontro tra domanda e offerta. Tutte le volte che ci sono prezzi amministrati, decisi dall'alto, politici, eccetera eccetera, questo meccanismo viene distorto. Ma l'altro presupposto è quello della concorrenza. Concorrenza che naturalmente, a seconda di come si definisca e a seconda di come è entrata negli ordinamenti, cioè nelle regole di mercato, di come è stata riconosciuta A come valore dalle leggi, B come presidio da assicurare incardinandola su espressioni del potere pubblico, classicamente autorità indipendenti, ovviamente varia la sua possibilità di esercitare i suoi effetti. Non crediamo di vivere in un mondo nel quale, sulla definizione di che cosa sia la concorrenza, davvero tutti e neanche la maggioranza spesso sono d'accordo. Ecco, allora, la trasmissione di oggi è concepita, come capita spesso, almeno a me, per riflettere su questo tema, su che cosa vuol dire la concorrenza nel nostro paese oggi, che cosa ha voluto dire negli ultimi anni, partendo da un libro che io vi consiglio di leggere di cuore. Non è un libro per addetti ai lavori, cioè non è un libro la cui comprensione e il cui gusto di lettura possa venire solo dal fatto che siate un esperto di diritto della concorrenza. È un libro che però fa il punto complessivamente, come non mi era capitato in maniera così completa di vedere negli ultimi anni, sulla storia dal 1990 in avanti della concorrenza in Italia, cioè da quando esiste una legge che introduce nel nostro paese l'autorità antitrust, con un ritardo di un secolo rispetto a leggi come quella americana dello Sherman Act. Però dal 1990 l'autorità entra a presidio di questo valore in diretta emanazione e applicazione anche di direttive comunitarie nel quadro dell'antitrust comunitario, ma di volta in volta nel tempo, a seconda dei presidenti, assumendo indirizzi e ambiti di intervento, sfere di potere diverse. Allora, il libro si intitola La rivoluzione incompiuta, 25 anni di antitrust in Italia, l'editore è Fazzi, sono 280 paginette quasi, il corpo è un po' grosso comunque, quindi non vi preoccupate, non è un corpo piccolissimo, e ha due caratteristiche. Primo, a scriverlo è uno di coloro che nella storia della concorrenza italiana ha lasciato un'orma importante, perché fin dalla stesura della norma, della legge che nel 90 introdusse l'autorità antitrust, si trovò a cooperare direttamente con chi quella legge la scriveva. Secondo, poi, a sottolineare il fatto che era una delle figure italiane con la maggiore specializzazione sul tema, è stato segretario generale per 10 anni dell'autorità antitrust, cioè da quando è nata nel 1990 fino al, dal 91 fino al 2000, e poi ha continuato la sua attività professionale come avvocato in grandi studi specializzato proprio sulla materia della concorrenza. Il suo nome è Alberto Pera, io lo ringrazio di essere collegato con noi. Buon pomeriggio Alberto. Buongiorno Oscar, buongiorno agli ascoltatori. Allora, io partirei con un primo consiglio di lettura a chi ci ascolta, perché per capire quanto e se davvero vi interessa la faccenda, il mio consiglio è di cominciare da pagina 252, verso la fine del libro, perché è il capitolo finale nel quale si traggono delle conclusioni ad oggi rispetto a che cos'è la concorrenza nel nostro paese, a come viene percepita, come viene messa in essere, ed è un capitolo nel quale appunto si giustifica la rivoluzione incompiuta, che è il titolo del libro. E vi direi di cominciare da quello, perché trovate in sintesi, richiamate lì, i giudizi su tutti i diversi presidenti che si sono alternati nel tempo alla guida dell'antitrust, e cioè Saia, Amato, Tesauro, Catricalà, fino all'attuale presidente Pitruzzella, e trovate anche una serie di riflessioni sul fatto di come sia cambiato, per così dire, sotto diversi presidenti l'effetto che hanno avuto all'interno del dibattito pubblico, delle norme e delle decisioni italiane. Cioè, siamo partiti dai primi due presidenti nei quali il ruolo della concorrenza, anche perché c'erano le privatizzazioni e così via, è stato concepito e anche percepito dagli italiani come una cosa molto positiva, a uno spostamento dopo la presidenza Tesauro con Catricalà verso un'attenzione soprattutto verso i settori del mercato più vicini all'utente finale, con una frammentazione, per così dire, di interventi e minori interventi sui piani alti del mercato, dell'economia, del capitalismo finanziario, e poi a una grande crisi, perché nella crisi italiana, la crisi come in tutti i paesi che perdono molte quote di PIL, di reddito pro capite, eccetera eccetera, vede accrescersi le difficoltà, e la percezione della concorrenza è come qualche cosa quasi che produca ancora più disoccupazione, mentre diventano più forti gli istinti protezionisti, tariffe, dazi, sussidi, eccetera eccetera. Allora, partirei proprio da quest'ultimo punto con Alberto Pera. Quanto, nella sensazione di Alberto Pera, l'attenuazione dell'importanza della concorrenza dipende dalla crisi italiana, prima ancora che dai presidenti che si sono succeduti? Tanto Oscar, mi sembra che abbia letto bene il libro, quindi complimenti su questo. Vabbè, insomma, è il minimo. Ma il punto, diciamo, quello che noi abbiamo cercato con Marco, che è un giornalista economico che Marco Cecchini, il coautore, sì. Esatto, che ha lavorato nelle istituzioni, che diciamo aiuta, ringrazio, diciamo che mi ha molto aiutato, e è stato molto utile questo giornalismo, perché ha dato un po' di, diciamo, ha evitato di restare nelle tecnicalità e di avere un testo interessante, spero, per il lettore. Da quel punto che ci siamo posti, c'è stata la crisi, quindi chiaramente la crisi ha generato preoccupazioni e quelle tensioni di cui tu dicevi, ma quanto alla perdita, o se vogliamo alla modificazione nella visione positiva della concorrenza, ha contribuito non soltanto la crisi e le situazioni economiche, non soltanto gli sviluppi della politica, perché anche quelli non sono irrilevanti, ma quanto forse l'atteggiamento dell'autorità antitrust. Quindi abbiamo cercato un po' di ricostruire come i diversi, poiché l'autorità poi alla fine sono naturalmente le istituzioni, le persone che ci lavorano, ma molti con molto coloro che li dirigono, come queste persone hanno interpretato il loro ruolo, e da questo punto di vista ci sembra che probabilmente l'adattarsi a quella che poteva essere la visione durante la crisi della concorrenza non abbia, da questo punto di vista, tanto aiutato. Ora, è vero che Catricalà, a un certo punto, in particolare la decisione a un certo punto di passare da una tutela del processo concorrenziale, e quindi alla concorrenza in senso proprio, una tutela piuttosto della concorrenza vista come tutela del consumatore, dell'utente finale in senso molto specifico. Ora, la storia dell'antitrust non comincia 25 anni fa, quando viene istituita l'autorità, ma comincia 28 nel nostro racconto, perché comincia quando, perché noi andiamo anche a vedere quali fossero le ragioni per cui in Italia è stata introdotta la normativa antitrust, naturalmente l'influenza comunitaria, l'onda comunitaria, ma anche la volontà di introdurre uno schema di vedere il funzionamento del mercato in maniera diversa da quello che era prevalente allora, cioè quello dell'economia mista, dell'intervento pubblico diretto, e invece imporre delle regole che valessero per tutti e avviare una riflessione, una spinta, diciamo, avere una legge che potesse in maniera, diciamo, top down costringere a riflettere sull'assetto del mercato e a aiutare un processo di liberalizzazione, e questo spiega il modo in cui la legge, alcune caratteristiche della legge, in particolare a parte il suo approccio comunitario pro mercato che si vede anche in varie previsioni, anche le caratteristiche dell'autorità, perché un tema che fu molto dibattuto prima della istituzione, prima dell'introduzione della legge, fu chi la dovesse amministrare, e l'obiettivo era quello di avere un'autorità quanto più possibile indipendente, al grado massimo di indipendenza. La scelta di Saia come primo presidente, Saia era un presidente della Corte Costituzionale, diciamo, leggendario all'epoca, perché in 3 anni di presidenza aveva eliminato 10 anni di arretrato, era considerato un personaggio assolutamente al di sopra delle parti in un momento in cui, diciamo, la lottizzazione era imperante. Cioè, stiamo parlando di un'autorità la cui caratteristica nel tempo è stata molto diversa da altre autorità di settore come la GCOM, dove gli stessi criteri di selezione dei commissari sono in mano ai partiti con quote fisse in Parlamento. Questo è almeno l'obiettivo iniziale, e credo che sia stato un obiettivo che, o per il livello dei personaggi che c'erano o per il fatto, per le scelte fortunate, ha certamente per un buon periodo caratterizzato l'autorità. E naturalmente voi dite che forse questo crinale da cui la storia dell'autorità prende un altro verso rispetto ai due presidenti iniziali, cioè Saia e Amato, e quello di Tesauro che rimane 7 anni, ma voi dite è quello che forse è andato troppo avanti rispetto ai tempi, tanto poi da generare un'onda quasi negativa di reazione all'estensione e alla penetrante forza anche dei provvedimenti sotto la sua presidenza. Io credo che Amato, Saia e Amato avessero ben compreso la difficoltà, diciamo, dell'ambiente in cui si trovavano, e tuttavia l'abbiano affrontato da un lato gagliardamente, perché quello è stato un periodo in cui l'autorità ha veramente dialogato, diciamo, ha veramente avuto un ruolo di faro, diciamo, nel processo di liberalizzazione. Fortunati, perché si trattava anche di un periodo in cui la politica nella sua debolezza era anche propensa ad accogliere, cioè, diciamo che era obbligata a privatizzare, obbligata, per causa di forza maggiore, diciamo, certo, così. Però diciamo hanno accoppiato a questa capacità di convincimento e di diciamo advocacy, come la chiamiamo, della concorrenza, un'attività che, diciamo, diretta, che da un lato che a mio parere è efficace. Tesauro, che veniva dalla Corte di Giustizia e quindi ragionava secondo parametri europei, ha pensato presumibilmente che il momento fosse maturo per un intervento diretto, deciso secondo i parametri comunitari, però questo e quindi, per esempio, è stato relativamente meno attivo dal punto di vista della spinta alle liberalizzazioni, diciamo, al contrasto dell'attività dello Stato, di intervento diretto dello Stato, e più decisamente interventista nei confronti dell'applicazione della normativa antitrust, il che è meritorio, ma probabilmente non aveva colto quanto in realtà la diffusione della cultura della concorrenza fosse ancora arretrata nel nostro paese. E soprattutto poi, i tempi iniziavano a cambiare, perché la politica era già alla fine del mandato di Tesauro, diciamo, era molto meno convinta delle necessità e dei tempi di Amato. È successo qualcos'altro che secondo noi è il vero problema, e cioè all'autorità nel 2004 è stata data la competenza sul conflitto di interessi. E Tesauro era molto contrario a questo, e d'altra parte anche Amato per conto suo a suo tempo, e invece questo a creare un problema, perché naturalmente la normativa del conflitto di interessi ha un contenuto politico importante, una delicatezza. In un paese dove c'era il problema Berlusconi, insomma, tra là. Diciamo così. E questo non ha aiutato. È andata diversamente. Cioè, allora, ci fermiamo 60 secondi per l'informazione stradale, poi torniamo con Alberto Pera. Stiamo parlando del suo libro La rivoluzione incompiuta, insieme con Marco Cecchini, 25 anni di antitrust in Italia, per parlare di concorrenza oggi. Tra 60 secondi. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati, cari ascoltatori di Radio 24, la versione di Oscar dopo il traffico, e con noi Alberto Pera, dal 1990 al 2000 primo segretario generale dell'autorità antitrust, coautore della norma grazie alla quale l'autorità entra nel nostro ordinamento. Ha scritto un libro con Marco Cecchini, giornalista che dal Corriere poi è stato portavoce dell'autorità sulle assicurazioni, e il titolo del libro è La rivoluzione incompiuta, 25 anni di antitrust in Italia, fa editore. Eravamo arrivati a un punto in cui, diciamo, con la presenza di Tesauro dopo Sei Amato si va un po' oltre, per così dire, viene affidata anche all'autorità antitrust la competenza sul conflitto di interessi, e da quel momento in poi è come se finisse l'era magica, per così dire, del grande favore, del grande consenso intorno all'estensione dell'autorità antitrust a favore della concorrenza nel nostro paese. La domanda che faccio a questo punto, Alberto Pera, è un'altra, venendo ai nostri tempi, per così dire. Non c'è anche un problema nel nostro ordinamento persistente di sovrapposizione, di confusione dei poteri rispetto al potere giudiziario ordinario, non solo quello amministrativo, ma oramai quello penale, direi. Cosa voglio dire? Se osserviamo la realtà offertaci dalla devastante condizione del Comune di Roma, la relazione del MEF sulle procedure amministrative invalse negli anni a fronte dei salvataggi ripetuti dalla condizione finanziaria di Roma, o se solo ci fermiamo anche all'ultimo rendiconto della Segreteria Generale del Comune di Roma, reso noto pochi giorni fa, sulla controllo delle attività amministrative del 2014 del Comune di Roma, in cui un atto amministrativo su sei firmato dai dirigenti resta a giudizio dello stesso segretario generale del Campidoglio irregolare, e dove le più ampie irregolarità sono la mancanza del rispetto di obblighi di affidamenti a gara, la sistematica affidamenti o in base di semplice proroga agli affidatari precedenti, gestioni in house che non dovrebbero essere consentite dalla legge. Ecco, tutta questa enorme materia, che significa le 10.000 partecipate e controllate locali, le municipalizzate, le città delle regioni, province, eccetera, eccetera. Tutta questa materia qua, che è finita per diventare competenza un po' amministrativa e un po' delle indagini penali, questa cosa rispetto alle difficoltà della concorrenza e della stessa autorità antitrust non ha un grande rilievo, secondo Alberto Pera? Ma diciamo che certamente le ha in termini innanzitutto di assetto generale della concorrenza, no? Cioè, noi abbiamo avuto un primo periodo, diciamo i primi 10-12 anni dell'autorità antitrust, che è stato anche un periodo di liberalizzazione di grandi settori, di privatizzazioni. Poi il dibattito sui servizi pubblici locali, l'assetto dell'amministrazione ha caratterizzato i successivi 15 anni, senza che però, nonostante ci siano stati dei tentativi, il problema sia stato affrontato e risolto. Quindi questo è certamente uno dei grandi temi su cui, per la verità, l'autorità sia nel periodo precedente a Catricalà, sia con Catricalà, sia anche con l'ultimo presidente, ha spesso effettuato sollecitazioni al Parlamento e alla politica perché intervenisse. Tra l'altro, da ultimo c'era stata la proposta di Cottarelli, rimasta nel cassetto. E quanto di queste cose li saremmo voluti evitare se in questi 15 anni, diciamo, da quando alla fine degli anni 90 si è affrontato il problema dei servizi pubblici locali, si fosse fatto qualche cosa, è una riflessione da fare. La seconda questione è che certamente c'è stata una, diciamo, si è verificato uno iato tra le condotte delle pubbliche amministrazioni e le regole che gradualmente avrebbero dovuto adeguare le condotte di cui hanno, anzi avrebbero richiesto alle amministrazioni di adeguarsi alle regole europee per quello che riguarda la loro azione esterna. E quindi ricorso a gare piuttosto che ad affidamenti diretti, cosa che molto spesso le amministrazioni non fanno. E poi c'è l'aspetto più strettamente tecnico-concorrenziale. Su questo devo dire l'autorità negli ultimi 3 o 4 anni ha fatto una scelta, cioè di dedicare la propria attenzione ai settori protetti e in particolare alle gare. E qui gli interventi sono stati un certo numero di interventi, tranne il fatto che naturalmente il campo è smisurato e quindi... Comunque, cari ascoltatori, io vi invito a leggere questo libro, non è un libro a tesi, è chiaro che chi lo scrive è per la concorrenza, però consente di fare una riflessione su che cosa è diventato nel tempo, grazie a chi, con le frenate anche di chi, e a capire meglio perché la politica e moltissimi di voi oggi non pensino più che sia un bene da tutelare e da estendere, a differenza di quello che pensavamo anni fa. Guardate che è dal 95 che noi perdiamo produttività comparata nella graduatoria internazionale, una delle componenti per risalire non è il salario orario dei lavoratori, è esattamente la concorrenza che sprigiona migliori margini per le imprese, alloca meglio le risorse negli investimenti, quindi è il caso di fermarlo, questa marcia indietro che nel nostro paese abbiamo messo con la concorrenza. E con questo libro, La rivoluzione incompiuta, 25 anni di antitrust in Italia, Fazi editore, di Alberto Pera e Marco Cecchini, secondo me vi fate una bella riflessione. Grazie Alberto Pera, continuate con Radio 24. Fra pochi minuti non perdere Focus Economia con Sebastiano Barisoni per comprendere e approfondire i temi dell'attualità economica e finanziaria.